Raccontiamo intanto come hai organizzato questo nuovo lavoro. Diciamo organizzato è una parola molto pratica, ma in realtà è un avvicinamento soprattutto emotivo, no? Quando si decide di fare questi spettacoli. Diciamo che è un'idea che mi frulla per adesso da tanto tempo per due motivi. Uno è perché mio figlio ha l'età giusta per fare questo personaggio adesso, l'età che un attore deve avere perché ha l'esperienza per affrontare un personaggio come Costia che farebbe tremare i polsi a chiunque. Poi perché trovo che Cieco, Fabio, ha una strana come dire, aderenza alla vita che stiamo vivendo in questo momento, al mondo che sta in questo momento evolvendo o involvendo. Infatti rileggendolo bene, ho ritrovato molte cose che oggi sono i problemi che stiamo vivendo, tipo giovani che non hanno possibilità di occupazione, che non sono in realtà valorizzati, che non sono apprezzati quanto dovrebbero, né gli si danno le opportunità per crescere, per dare quello che dovrebbero dare alle persone, alla società, insomma, al lavoro, alla cultura, eccetera. I vecchi che vengono sopportati, si aspetta che muoiano, in qualche modo li si parcheggia, non gli si dà nessun tipo di occasione di rinnovamento, anche di adesione alla realtà, ma li si relega in situazioni non fastidiose, eccetera, eccetera. E le persone di mezza età, coloro che hanno, diciamo, un potere o una collocazione sociale, che non mollano minimamente il potere che hanno e non se ne guardano bene dal fare qualsiasi cosa che non sia il loro preciso e motivato interesse. E naturalmente tutto questo poi in un cambiamento epocale, sta per arrivare la guerra mondiale, la prima guerra mondiale, la rivoluzione russa, e ognuno è come dire, nell'orticello del proprio interesse egoistico e non sente che sta arrivando questo enorme cambiamento e oltretutto anche un avvicendamento di classi sociali, stanno avanzando le classi sociali che prima erano relegate come dire, in ruoli secondari, stanno diventando poi protagonisti, che sarà poi la piccola borghesia fondamentalmente. Ecco, insomma, molte cose, adesso è inutile fare tutto l'elenco, molte cose vengono oggi, poi naturalmente l'ipocrisia dei rapporti, ognuno ha una storia segreta o degli amori segreti, le coppie già da allora non funzionavano, oppure funzionavano con falsità, ipocrisia, eccetera. Quindi c'è tantissimo, tantissima modernità in Cieco, oltre a quell'ironia che lui spesso soffriva non venisse utilizzata, e invece la tragedia anche delle piccole tragedie degli esseri umani. Quindi a forza di rileggere, a un certo punto ho pensato che poteva essere il momento. In più, diciamo che c'è anche una mezza polemica con l'andamento generale del teatro italiano. Sono cose che dovrebbero fare gli stabili, che dovrebbero fare quasi a ripetizione, invece gli stabili stanno ormai orientandosi in spettacoli a 3, 4 attori, 5 massimo, con scene fisse, con, insomma, stanno un po' tirando i remi in barca e io trovo che sia abbastanza sbagliato. Ma anche le grandi compagnie private che una volta facevano questi spettacoli non le fanno più, non le possono fare, i costi sono troppi, eccetera, eccetera. Allora io ho detto, ma facciamolo noi in questa specie di posto strano che è stanze segrete, che è una specie di ritiro dove noi lavoriamo per noi e per quei pochi, perché è naturalmente un posto piccolo, per 36 persone a sera, per quei pochi che di solito però vengono, sono affezionati, ci conoscono, ci ammirano e vengono dal 98 senza nessun tipo di pubblicità perché non abbiamo soldi per fare pubblicità. E quindi dico, beh, facciamolo noi. E la scommessa è, riusciranno 10 attori a entrare in questo spazio piccolo, minuscolo, intimo, segreto, magico, esclusivo. E beh, pare che ci siamo riusciti. Stasera andiamo in scena, abbiamo fatto già una generale che ha funzionato. Insomma, ecco, diciamo che è stato un avvicinamento. Un avvicinamento progressivo e poi adesso l'impatto sta per avvenire. Sì. Senti, dal punto di vista drammaturgico, com'è stato il passaggio dal testo alla messa in scena? Sì, guarda, il mio adattamento, in realtà i miei adattamenti sono sempre rispettosi dell'autore, quindi non c'è nessun cambiamento effettivo. Io uso l'adattamento da un punto di vista di adattarlo ai tempi e quindi ho sfoltito, diciamo così, ho tolto il di più, i tempi sono diversi, alcune cose sono ridondanti, ripetute inutilmente, e quindi l'ho snellito, come si dice, a detta di tutti, anche di quelli che lo pensavano datato, eccetera, eccetera, invece pare che funzioni. E quindi, diciamo che è stato quello che faccio sempre, poi l'ho fatto per Shakespeare, lo faccio per qualsiasi autore, se mi piace l'autore, non, perlomeno io non sono portato a fare in modo che diventi un'altra cosa, deve essere per me quella, perché amo l'autore e lo rispetto, quella naturalmente con un adattamento ai tempi. Minimo. Poi mi piacciono anche moltissimo le modernizzazioni, sono fatte in costumi moderni, sì, va bene, ma in questo caso era più importante a mio avviso recuperare un passato, una memoria, un classico proprio, nella migliore dell'accezione della parola, un classico nella sua forza in quanto classico. Mm-hmm. E poi i costumi fossero in jeans, forse sarebbe la stessa cosa, ma io ho preferito usare i costumi di Farani, bellissimi d'epoca, utilizzati e scelti da Rita Forzano, che a gusto della Forzano è a mio avviso strepitoso, e quindi ecco, l'adattamento è soltanto uno snellimento, un adattamento al ritmo e al clima, diciamo così, a cui siamo abituati oggi, che è un clima un pochino più serrato nelle cose. Un'ultima cosa sulla scelta di attori e attrici? Professionisti presi al doppiaggio, nel senso che siccome il teatro non paga e tutti gli attori bravi stanno facendo doppiaggio in questo momento, anche insomma, bravi che fanno teatro, però quelli che fanno teatro stanno in giro, in tournée, e allora gli attori bravi che non possono fare teatro e possono invece guadagnare bene a Roma con il doppiaggio, però se ne muoiono di fare teatro, che poi è la vera passione di un attore. E poi siccome Stanzo è anche un po' cinema, perché è piccolo, quindi gli spettatori sono attaccati agli attori e c'è una recitazione che è a metà tra la cinematografica e quella teatrale, e quindi i nostri straordinari attori, tra cui Pietro Biondi per esempio, il decano del teatro, del cinema, della televisione, straordinario attore, si diverte a stare qui con noi. Marco Mete, grande doppiatore ma attore di teatro come tutti, Gianna Paola Scaffidi, grande attrice di teatro, e Emiliano, mio figlio, che fa doppiaggio e cinema e televisione, sono le sue punte di diamante, ma che nasce dal teatro e se ne muore di fare teatro, anche vero che me lo chiede sempre, facciamo qualcosa di teatro, io riorganizzo quando posso delle cose giuste per lui. E tutti gli altri, Gabriele Martini, Giulia Sciu, che sono dei giovani, anche Virna Zordan, sono tutti gli altri, Patrizia Bernardini, sono comunque professionisti che anche se alle prime armi alcuni, Patrizia Bernardini no, è un'attrice con tanto passato teatrale, anche se alle prime armi però vogliono mettersi in gioco con personaggi importanti che possono farli crescere naturalmente. Benissimo, allora Ennio io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo e ci si vede a teatro. Perfetto, un abbraccio, grazie a te. Ciao.